Tempo di Sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, anche da parte di Giorgio De Luca in redazione e di Carmelo Lauricella in regia. Vi do subito il contatto per intervenire oggi pomeriggio con tanti temi di discussione come sempre, tanti ospiti. 800 24 00 24, numero verde, messaggi sms 349 238 6666. Vado subito sulla cronaca che ci porta i risultati di B con la prima Sampdoria di Iachini che stava vincendo ma alla fine ha pareggiato a Bari 1-1, il Torino capolista che pareggia 0-0 a Crotone, il Verona che vince 3-1 ad Empoli, 2-2 tra Juve Stabia e Modena ma anche tra Nocerina e Vicenza. Il Grosseto vince 1-0 a Padova, il Pescara batte 2-1 al Gubbio e si arrampica al secondo posto della classifica acchiappando Sassuolo che pareggia 1-1 in casa con il Brescia. Il Cittadella vince 1-0 a Varese, Torino 35, Pescara, Sassuolo 32, Padova Verona 28, Regina 27 e la Sampdoria che ne ha 23 come il Grosseto. La cronaca ci porta poi al calcio internazionale. Sta giocando il Manchester City, ma per noi sta giocando soprattutto Mario Balotelli. Il Manchester City vince 2-0 difendendo il suo primato contro il Newcastle. Balotelli ha segnato il primo gol del City su rigore, il secondo di Richards. E c'è Gianluca Vialli che ha scritto subito su Twitter: Balotelli tira troppo bene i rigori, però certe sue esultanze non si possono vedere. Come ha esultato incrociando le braccia e camminando a testa bassa come a uno al quale non gliene frega niente. In questo ha ragione Vialli su tutte e due le cose, però Balotelli è stato uno dei personaggi certamente di questi giorni. La cronaca ci porta all'estero anche per una notizia pulp che arriva dal campionato tedesco. Pulp mi sembra la definizione giusta, dove c'è un arbitro che si chiama Babak Rafati ed è uno dei più quotati arbitri tedeschi che oggi ha tentato il suicidio. Doveva arbitrare la partita tra Colonia e Mainz e Magonza che è stata rinviata. Allo stadio è giunta la notizia secondo la quale l'arbitro non era arrivato allo stadio e dunque la partita veniva rinviata. In realtà era stato trovato nella sua camera con le vene tagliate, addirittura ricoverato in condizioni critiche, motivi ignoti, e che questa notizia sia agghiacciante, beh, insomma, mi sembra dir poco. Io saluto e ringrazio un mio amico, un nuovo amico di Radio 24, Enzo Bucchioni, direttore di QS. Ciao Enzo, ciao direttore. Ciao a te e a tutti gli amici che ci ascoltano, ben trovati. Grazie. Un piacere essere con voi. Grazie, reciproco naturalmente. Direttore, è stata la settimana delle parole, un fiume di parole tra la voglia di farla finita e il pensiero, anche mio peraltro, che non sarà così con questo famoso tavolo politico. Il tuo di pensiero qual è? Sì, fiume di parole, c'era quella canzone, mi pare qualche anno fa, vinta sì. Sanremo. Sì, qui c'è poco da vincere, mi sa che il vincitore non lo vedremo forse mai di questa vicenda. Parole, tante parole, io aspetto i fatti perché questo tavolo si farà, e credo forse mai, perché ci sono troppe distanze fra le parti in causa, lo dicono tutti, ma voglio vedere poi chi siederà attorno a quel tavolo. Se nessuno fa un passo indietro, la vedo molto molto complicata. Questa vicenda di Calciopoli si trascinerà ancora da quanto, fermo restando che ha ragione Petrucci, non sarebbe più di tutti questi avvocati che hanno invaso il calcio, di tutte queste leggi, leggine, riviste, rivisitate, cavilli burocratici, basta, veramente è il momento di metterci una pietra sopra, ma chi ce la mette? Chi ce la mette? Questo, la pietra la mettiamo sotto il tavolo, che verrà preso a pugni, come ha scritto in settimana Gianni Mura. Non vorrei essere quel tavolo, perché appunto si beccherà un sacco di cazzotti. No, c'è la seduta spiritica, si può fare. O la seduta, sì, questa può essere una soluzione alternativa. Ma all'inizio si è detto: bene, tavolo politico, tutti d'accordo, facciamo la pace, e poi comincia la Juventus a dire: sì, io mi siedo, però voglio i soldi, voglio gli scudetti e quindi non arretro di un passo. E poi Abete che dice: sì, tavolo politico, però attenzione, perché non è che ognuno si fa la sua morale. Se è così, il tavolo politico ha già le gambe zoppe, è già traballante, eh. Sì, ma non c'è dubbio, ma guarda, basta pensare cosa è successo negli ultimi due mesi. Il tavolo politico l'aveva proposto a fine agosto Diego Della Valle, sì. Nessuno l'ha considerato perché evidentemente i tempi erano ancora meno maturi di adesso, ma perché non c'è la volontà, perché cos'è cambiato? Oggi lo propone la Juventus e si siedono attorno a un tavolo. Io credo che ci siano delle pregiudiziali, come dicevo prima, troppo importanti. Ci vuole un'opera di mediazione profonda, ci deve essere un Richelieu che si mette al lavoro e va ad analizzare analizzare tutte le richieste delle varie squadre e può trovare una mediazione. Io credo, questa è una mia opinione personalissima, che ruoti tutto attorno allo scudetto del 2006. Cioè, se l'Inter, Moratti, dovesse fare il grande gesto di restituire questo scudetto, beh, allora io credo che lì sarebbe la svolta. Moratti continua a dire che non lo farà mai, che quello scudetto per lui è un risarcimento dei danni che ha subito negli anni Moggiani, chiamiamolo così, chiamiamoli così. E quindi non se ne esce da questa vicenda, perché se l'Inter si tiene lo scudetto, la Juventus andrà avanti con tutte le sue carte legali, con tutto il suo esercito di avvocati, e quindi bisogna vedere cosa chiede in cambio l'Inter per fare, che poi tutto ha un prezzo, no? L'Inter probabilmente vorrà qualcosa in cambio per fare questo passo. Moratti dovrà decidersi, anche perché il calcio va pacificato, perché poi non possono venire a dire o far capire i nerazzurri al primo incidente di percorso di qualche arbitro, beh, allora c'è il complotto perché non abbiamo restituito lo scudetto del 2006. È una situazione, ma è sempre stato anche il mio pensiero, direttore, il peccato originale è l'assegnazione di quello scudetto, con tutta la retorica che ha accompagnato l'accoglienza di questo scudetto da parte dell'Inter. Semplicemente era uno scudetto partorito da un campionato irregolare, che, come accade per i processi nulli, non doveva avere una sentenza di questo tipo. Però adesso, poi, siccome lo dico da 4 anni e so benissimo che adesso vengo seppellito dagli ascoltatori, vorrei cambiare discorso, se me lo permetti. No, ma ti posso interrompere? Sì, scusa. Come no. Io però vedo sempre più numeroso l'esercito degli interisti che con lo scudetto non lo vorrebbe, perché io credo che sia un problema di Moratti per tutto quello che ha subito, dice lui, e qui può essere anche giusto, però tanti tifosi dell'Inter con lo scudetto non lo sentono loro e lo restituirebbero volentieri. Fra l'altro, poi all'epoca poteva essere anche giusto dare lo scudetto all'Inter, cioè sono stati 3 saggi, hanno detto queste cose. Nel frattempo non dobbiamo dimenticare che sono venute fuori altre cose, altre telefonate. C'è un Palazzi, il procuratore federale, che ha detto che se quelle telefonate fossero venute fuori nel 2006 anche l'Inter avrebbe subito qualcosa a livello di giustizia sportiva. Quindi non è più lo scudetto del 2006, sono intervenuti fatti diversi, questo non bisogna dimenticarlo mai. Certo. Senti, però cambierei discorso, anche perché è stata la settimana sì delle parole, ma anche della nazionale, che trova Balotelli ma perde una partita in casa. Balotelli che ha segno anche oggi, dicevo, con il suo City. Come valuti lo stato dell'arte dei lavori azzurri? Prandelli ha fatto un grosso lavoro in questo anno e mezzo, ha preso una nazionale dalle ceneri di un mondiale devastante, quindi la nazionale ha ritrovato una squadra, ha ritrovato un'anima, una personalità. Poi, strada facendo, ha perso 2 giocatori importantissimi, sono Cassano e Rossi. Prandelli aveva creato un movimento in campo, schemi, chiamiamoli così, senza stare a fare i numeri 4-3-3, lasciamo perdere, però che assomigliava un pochino al Barcellona, un gioco palla a terra, senza punti di riferimento in attacco, e questi due erano gli artefici principali. Tolti 2 giocatori così, si è dovuto reinventare in fretta e furia un tipo diverso in nazionale, con una punta più statica, diciamo Pazzini, poi c'è anche Mazzi, ci sono altri, con Balotelli che ruota attorno. Quindi non è facile cambiare, sappiamo che Prandelli ha bisogno di tempo, ha chiesto anche degli stage per poter mettere in pratica il lavoro sul campo, lui è abilissimo a lavorare sul campo. Diamogli del tempo, perché nel frattempo questa nazionale ha veramente ritrovato un'anima, un modo di stare in campo, una personalità che nel passato forse non aveva. Ha cambiato un pochino tutto quello, i criteri del calcio nostrano, che di solito giocavamo di rimessa, come ha detto giustamente lui, contro qualcuno. Bravo, ora invece giochiamo per una nazionale che gioca per giocare, mi sembra un passaggio epocale. Se riuscirà, saremo tutti quanti contenti. No, quella è la frase chiave, sono d'accordo con te, tu conosci il mio pensiero, a me piace molto quella, la nuova coppia offensiva, che non ritengo assolutamente inferiore a quella degli assenti, purtroppo, che contiamo di recuperare, però secondo me si parte da Balotelli, punto fermo, che danza intorno ad una prima punta, e Pazzini mi sembra un'ottima soluzione. Direttore, ti chiedo un istante di pazienza. Hai bisogno di un trequartista però in questo gioco, che non ce l'hai. Non è Montolivo, vero? No, Montolivo non mi sembra adatto, mi sembra più efficace quando parte da lontano, quando fa la mezzala tradizionale, oppure anche davanti alla difesa. Sì. Ti chiedo un attimo, un istante di pazienza perché ho il traffico, poi vorrei, prima di salutarti, rubarti una battuta su un ambiente che conosci molto bene, come quello viola, anche perché stasera debutta Delio Rossi su quella panchina, un Delio Rossi che vedevo prima dalle immagini di Firenze, da certe magliette, da certi sorrisi, ha ridato un po' di ottimismo ad un ambiente che forse non poteva più soffrire Mihajlovic, per motivi che francamente non conosco. Allora, Enzo Bucchione, direttore di QS, la Fiorentina e Delio Rossi che restituisce il sorriso all'ambiente viola, che non so perché Mihajlovic proprio non lo poteva più vedere. Sì, non, ma non da oggi, è un problema che affonda le radici nel dopo Prandelli, perché abbiamo parlato prima di Prandelli CT, ma Prandelli è stato 5 anni a Firenze, sono stati anni straordinari. Certo. Quello che ha fatto in Champions questa squadra, in campionato, ricordiamolo, è arrivata due volte, poi non l'ha fatta per Calciopoli, torniamo su Calciopoli, però altre due volte ha partecipato alla Champions. Due anni fa di questi tempi la Fiorentina ha vinto il girone, quindi era fra le prime 8 squadre in Europa. Qualcosa di straordinario. Poi c'è stata una rottura un pochino traumatica, lo ricorderete, con Della Valle che minacciava le dimissioni, quindi non si sono lasciati bene la Fiorentina Prandelli, e molti dei tifosi, la stragrande maggioranza, stava con Prandelli. Quindi all'epoca, cioè un anno e mezzo fa, chiunque avesse preso quel posto sarebbe stato un posto maledetto. Mihajlovic è capitato forse nel posto giusto per lui, ma nel momento sbagliato. Ripeto, chiunque, ma forse anche Capello, i grandi della panchina, se erano venuti qui avrebbero incontrato delle difficoltà. Figurati un allenatore che non aveva mai allenato una squadra dall'inizio in Serie A. È stata la sua prima esperienza, una squadra che non era sua, perché poi il mercato l'anno scorso non c'è stato, era ancora la squadra di Prandelli, molte vicissitudini, ricordiamo Mutu cosa è successo l'anno scorso, fra doping, fra risse, fuori campo, tutto, un'annata maledetta. Quest'anno era il punto di verifica per lui e anche per l'ambiente. L'ambiente non l'ha mai abitato neanche l'anno dopo, perché poi c'è stato il periodo interista, diciamo così, con la ventina di giorni, quando Mihajlovic quest'estate è stato accreditato come possibile successore di Leonardo sulla panchina dell'Inter, poi lui ha detto di no, forse l'Inter non l'ha più voluto, non si è mai capito questo giallo, e lì c'è stato un ulteriore distacco con la tifoseria fiorentina. Qualche parola sbagliata detta da Mihajlovic, del tipo se uno allena a Firenze può allenare tutto il mondo, come dire, qui sono un pochino tutti grulli, come si dice a Firenze, e non è così. Quindi insomma c'è stato questo tipo di approccio e questo tipo di svolgimento della vicenda Mihajlovic in città. Teddy Rossi è l'uomo della svolta, una svolta vera, e lo vedi già dalla presenza sugli spalti. Lo stadio gremito del Franchi, forse l'ultima volta c'è stato con il Bayern in Champions League un anno e mezzo fa, è qualcosa di straordinario di questi tempi, sono vuoti, c'è una grande attesa. Non aspettatevi miracoli, perché l'ha detto lui giustamente, non sono Gesù e non nessuno pensava di prendere Gesù e di metterlo in panchina. E quindi però la Fiorentina si aspetta molto, soprattutto si aspetta un gioco, quello che Mihajlovic, poi la rottura definitiva è stata sul campo, perché poi il campo è quello che parla. Se la Fiorentina avesse giocato un bel calcio, se avesse fatto risultati, probabilmente anche Mihajlovic sarebbe non c'è dubbio. Invece una squadra senza anima, ecco, ritorniamo alla vicenda dell'anima, una squadra che entrava sempre in campo con la testa da un'altra parte, per di più non ha mai espresso un gioco accettabile, e la rottura è stata, ecco, da Rossi si attende proprio questo, un gioco e una capacità di stare in campo con personalità, e mi sembra sotto questo aspetto un allenatore, l'allenatore giusto, ricorda un po' Prandelli, questo maestro non c'è di dubbio, calcio, non c'è dubbio, Enzo, non c'è dubbio, è un allenatore che a me piace molto, è un allenatore di grande saggezza e di grande credibilità, quindi poi non è Gesù, così come abbiamo scoperto che lui non è Gesù, e che sappiamo bene che Mourinho non è Harry Potter, e quindi sono semplicemente degli allenatori. Direttore, io ti ringrazio, a presto. Grazie a te e a tutti gli ascoltatori, è stato un vero piacere, buon pomeriggio a tutti. A presto con Enzo Bucchioni, direttore di QS, io passo a parlare con gli ascoltatori con grande piacere anche in questo caso, perdonatemi la ripetizione, 800240024, Walter da Milano, poi sempre da Milano Piero. Walter, buonasera. Buonasera. Dica. Senta, io la ringrazio perché mi dà l'opportunità di dire una cosa che vorrei dire da anni, ma non ho mai trovato le strade per dirlo. Pubblicamente, avrà detto in privato. Sì. 2006. Sì. Il mondo del calcio, i giornalisti e l'opinione pubblica si è dimenticato del perché è stato assegnato lo scudetto all'Inter. Cioè? Prima della sentenza, la classifica era prima Juve, secondo Milan, terzo Inter, quarta Roma. Togliendo lo scudetto alla Juventus, non assegnato come l'anno precedente, e togliendo dalla classifica al secondo posto il Milan. Sì. No, ma questo lo sa. In Champions ci sarebbero andate solo Inter e Roma. Sì, questo però si sa. Se ricordate tutti bene. Sì, ma questa avere cronaca, quattro squadre in Champions è stato assegnato lo scudetto all'Inter, questa è stata la giustificazione data all'epoca. Adesso chiedere la restituzione dello scudetto grazie a un artificio che ha permesso al Milan di giocare la Coppa e di vincerla, mi sembra assurdo. Il Milan dovrebbe restituire la Champions perché ha giocato una Champions che non doveva giocare se non veniva assegnato lo scudetto all'Inter. Io credo che lo scudetto non vada restituito, ma vada semplicemente lasciato vacante. Poi quelli che era quello che con i miei amici interisti ci auspicavamo in tribuna all'epoca, nel 2006. Sì. Non vogliamo lo scudetto, così Milan non gioca la Champions. Sì. Saremmo anti-milanisti, ma la logica era quella. Sì. Era terza Inter, quarta Roma. Inter e Roma è preliminare di Champions e nessuno è messo direttamente in Champions. Sì. Se però hanno riscritto una classifica per far giocare quattro squadre in Champions, non si può arrivare 5 anni dopo a dire restituiamo lo scudetto. E soprattutto gli juventini dovrebbero chiedersi perché hanno perso quello scudetto. No, ma non è una questione di restituirlo alla Juventus, questo sia ben chiaro. La mia idea è che quello scudetto, come ho detto e come ripeto, sarebbe dovuto rimanere vacante. Poi questo delle squadre in Champions League è un'ulteriore aggiunta che per la cronaca ci ricordiamo benissimo. Però il discorso verte intorno a quello scudetto, ma secondo me anche al modo con il quale l'Inter lo ha festeggiato, quella retorica dello scudetto degli onesti che non ho mai condiviso fino in fondo. Piero Milano, buonasera. Buonasera, grazie di darmi la possibilità di... Grazie di a lei. Per me è un piacere, con Radio 24 vi ascolto tutto il giorno. Benissimo, grazie. Sono un piccolo... ritorno un attimino sul discorso di Tangentopoli. Io sono milanista e pertanto vivo la cosa in maniera, diciamo, indiretta. L'errore è stato fatto nel momento in cui è stato assegnato lo scudetto all'Inter. Ora è difficile venire fuori da questa situazione, anche perché la Juve è comprensibile, visto che comunque è una società quotata in borsa, pertanto ha anche delle logiche da seguire. L'Inter poteva francamente fare a meno di vedersi assegnato quello scudetto, anche perché, voglio dire, è stata una brutta pagina del calcio italiano, e come dici tu, scusa se ti do del tu, no, prego. Si poteva comunque mettere una pietra tombale su quell'anno calcistico e ricordarselo a eterna memoria, che comunque quel tipo di calcio non va bene, non bisogna ricommettere gli stessi errori. Faccio anche una piccola retorica. In un momento così di difficoltà, anche di crisi economica, dove comunque sappiamo tutti che c'è una situazione un po' particolare, sì, proprio il calcio dovrebbe comunque ritrovare una certa sobrietà, e questo manca, e a me dispiace perché non riesco a comprenderne le ragioni. Io sarei molto sorpreso se ciò accadesse. Cioè, la parola sobrietà non si abbina al mondo del calcio, al modo di vivere anche il mondo del calcio, quindi sarei molto sorpreso se ciò avvenisse, Piero, dico la verità. Cioè, non dobbiamo aspettarci dal calcio, secondo me, delle lezioni di eleganza. Io torno alla nazionale di Prandelli, da lì invece ho sentito uscire, dallo stesso CT, ma anche da Buffon, delle parole che però sono personali, credo, in questo caso sì, di grande saggezza. La ringrazio, saluto invece il mio amico Paolo Bargigia, con cui vorrei aprire un confronto da Mediaset. Ciao Paolo. Ciao Carlo, buonasera. Ciao e grazie. Vorrei aprire con te un confronto per capire se sei sempre così critico nei confronti di Mario Balotelli, o se questo inizio di stagione ti ha un po' fatto cambiare idea su questo giocatore. Perché io ricordo il tuo ultimo intervento su questi schermi. No, io ero critico e lo sei del valore, ma non ero critico per fare il moralista peloso che si scandalizzava di fronte alle sue scelte di vita, per carità, non la vedevo in quel senso lì. Io ero critico su due aspetti di Balotelli: sul Balotelli venduto come campione, o sul fatto che lui si considerasse fra i primi giocatori del mondo. Ed onestamente dicevo, e continuo a dirlo, si è visto poco e veramente astratti del suo valore, che probabilmente è annacquato dalla sua testa per il momento. No? Tra l'altro una risposta in quel senso gli era data anche Ibrahimovic, no? Dove ha detto se fosse uno dei primi tre al mondo giocherebbe tutte le partite, magari arriverà a farlo. Quindi diciamo... E poi ero critico su tutta quella filiera di moralismo invece che gli stava intorno, cioè ha delle difficoltà nella vita, nelle scelte, nel riscatto, e addirittura, se ricordi, qualche nostro collega voleva farlo diventare bandiera dell'antirazzismo nel calcio, no? Facendogli fare il capitano in una partita della nazionale. Ecco, secondo me in Italia siamo già pieni di garantisti di professione, di solidaristi di professione, eccetera, eccetera. Quello che c'era intorno non mi piaceva. Però lui è cresciuto. Ma caso strano, vedi, è cresciuto. Ma siamo d'accordo con Prandelli che, insomma, ha trovato una dimensione. Tra l'altro, per la cronaca, sta uscendo in questo momento col City in vantaggio 2-0, siamo al 70esimo, entra Silva al posto di Mario Balotelli, a segno, lo ricordo. Ma siamo d'accordo, possiamo essere d'accordo con Prandelli? Può essere il giocatore chiave della nazionale anche come maturità raggiunta? Possiamo scommettere su Balotelli in questo momento? Come maturità raggiunta, non direi. Uomo di calciatore, non ancora. Non ancora. Come giocatore che può essere, può rappresentare la differenza con i suoi colpi e le sue giocate, come stiamo vedendo ultimamente, sì, questo assolutamente sì. L'imprevedibilità, la forza, l'istinto, il coraggio, ecco, queste sono doti che possono farlo diventare il leader, tra virgolette, cioè quello che riesce a fare cose che agli altri non riescono. Ecco, per maturità, eccetera, no, andiamoci piano. Cioè io non lo leggerei ancora a uomo guida della nazionale e del nostro sistema calcio, capisci? Sì. Anche perché poi non è neanche giusto investire di un ruolo del genere quando chi ha il triplo dei suoi anni e fa il dirigente e ci rappresenta, altro che balotellate, cioè sarebbe da rinchiudere l'asino Mariuccia, quindi non diamo tante responsabilità al povero Balotelli. Sì, senti Paolo, un'ultima cosa, sì, visto che l'hai citato tu, invece quel famoso libro di Ibra, che impressione ti ha fatto? Ho visto Inzaghi che lo leggeva sul treno, ha fatto un bello spot anche per il suo compagno e collega. Il personaggio di Ibrahimovic che esce da quel libro ti piace oppure no? O come lo valuti? Guarda, secondo me innanzitutto è un libro vero, io non credo che ci siano cose forzate per vendere di più, come qualcuno ha scritto, anche perché credo che Ibra, insomma, non abbia bisogno di vendere 4 libri in più, no, per diventare ricco. Credo ci sia tutta la verità, il realismo e, se vuoi, anche la durezza del personaggio, che secondo me però bisogna diffidare dagli imitatori, nel senso che Ibra credo sia uno dei pochi, per fisionomica, per qualità, per talento, per fisico, per cultura, a potersi permettere di vivere in coerenza con certi atteggiamenti. Sì. Devo dire che non sono fra quelli, per esempio, come aveva scritto recentemente la bravissima Josefa Idem sulla Gazzetta, che condanna questo genere di pubblicistica, perché insomma non è di buon esempio per i ragazzi. Io credo che i buoni esempi ai ragazzi debbano provenire dalla famiglia, dalla scuola, dalle istituzioni, dai genitori. E poi credimi, tanto chi volesse imitare Ibra, secondo me 9 case su 10 sarebbe ridicolo o si schianterebbe subito, perché per fare una vita così devi avere le palle, devi avere il fisico, devi avere la mentalità. Certo, non è, se vuoi, se vogliamo fare un paio di moralisti, non è un esempissimo. Però lui, hai capito? No, ma io sono sempre d'accordo sui personaggi veri, su quelli che comunque, pur con i loro difetti, chiaro che non ci fa una grandissima figura, perché in alcuni casi passa un po' per bandito, un po' per sbruffoncello, un po' per anche per spione, perché va a rivelare certe cose che magari per l'etica dello sport dovrebbero rimanere chiuse, come sai bene, nei quattro mura dello spogliatoio. Insomma, non ci fa una grandissima figura, però quantomeno esce un personaggio vero che ha il coraggio di raccontarsi pur con tutti i suoi difetti. Su questo sono d'accordo. Quanto al fatto che questi debbano essere esempi per i bambini, beh, togliamocelo dalla testa. Tocca a noi far sì che questi non diventino esempi per i bambini, perché non lo devono essere. Io ti ringrazio, Paolo, è sempre un piacere. Ti posso posso chiudere in 20 secondi? Certo. Ti voglio dire che noi che facciamo informazione e comunque per far vedere che comunque la realtà è quella vera, non è quella finta, io preferisco personaggi come Ibrahimovic che hanno il coraggio di dire come stanno le cose rispetto ad altri personaggi altrettanto popolari che fanno i calciatori, dove su 10 interviste 11 sono tutte edulcorate, tutto bene, tutto bravo. Certo, guarda, non ti faccio nomi, ma anche perché sarebbe troppo facile fare i nomi. No, c'è un giocatore dell'Inter che fa il capitano che in settimana ha dichiarato: allora, Ibra, tutto bene, se tornasse Balotelli, ah perfetto, lo accoglieremmo a braccia aperte. E poi aiutami tu a capire, però credo che chi ci ascolta abbia capito. Dai, non esiste, cioè uno vero non è fatto così. Possibile che non ci sia niente che va bene nella vita o qualche aspetto critico? Cioè, ben venga Ibra di fronte alla... hai capito? Sì, ho capito. Alla falsa demagogia. Non sei d'accordo, Carlo? No, sono d'accordo. Sono anche, sai, a me i personaggi piacciono, mi piacciono i personaggi veri. Poi sentiamo. Il mondo è fatto di cose, ma è possibile che uno... cioè, devono essere tutti bravi, tutti amici, angeli, tutto bene, tutto a posto? Lo so. Sei d'accordo? Sì, sono d'accordo. Grazie Paolo. Ciao, alla prossima. Grazie Paolo Bargigia. Noi ci fermiamo per una rapida pausa, poi torniamo con gli ascoltatori. 800240024. Terzo gol del Manchester City. Sfiga vuole che uscito dal campo Balotelli sia stato assegnato un rigore nettissimo al City. Lo ha tirato Silva, che era appena entrato al posto di Super Mario, che sennò poteva inchiostrare la doppietta. No, la segnata Agüero. Comunque avrebbe tirato Balotelli. Condividi, Giorgio De Luca? Vi devo dire che il Kun Agüero esce zoppicando dal campo dopo aver segnato il rigore del 3-0 del City sul Newcastle, e lo sportivissimo napoletano Giorgio De Luca si lascia sfuggire un sorrisetto. Ma questo tanto per la cronaca. 800 24 00 24 è il numero verde. Italo da Como, buonasera. Buonasera. Io chiamavo per questo, stavo sentendo come spesso la vostra radio e sono rimasto particolarmente colpito dal giornalista, suo collega di Mediaset, come si chiama, Bargigia. Paolo Bargigia, sì. Ecco, sì. Ecco, io dico che un mediocre scarso come Bargigia, anche quando io lo reputo, prima di tirare in ballo Zanetti per paragonarlo a Ibra, e comunque prima di pronunciare il nome che ho pronunciato, ma anche alludere al nome di Zanetti, dovrebbe sciacquarsi bene la bocca con l'acido muriatico puro. Beh, adesso Italo, adesso capisco la rabbia, ma non esageruma, no, come si dice dalle nostre parti. Stiamo parlando Zanetti non lo discute nessuno come giocatore, come esempio, come professionista, anche se io sugli esempi, sulla storia degli esempi dei calciatori che devono essere un esempio, sono molto critico, non sono d'accordo su questo. Si stava semplicemente parlando, mi pare, di comunicativa e di capacità di comunicazione, non si stava mettendo in discussione null'altro, no? In tutta onestà, con tutto l'amore vero che ho per un professionista come Zanetti, io se sento un'intervista di Gattuso, di Ibrahimovic, di Mourinho, lo sto ad ascoltare. Sinceramente, Savia Zanetti fa il suo ruolo di capitano ed è molto istituzionale. Su questo può essere d'accordo con me o neanche su questo? Ho la fortuna di aver conosciuto Zanetti da appena arrivato, lo conosco tuttora, lo frequento anche abbastanza, però voglio dire, se adesso lei mi fa un altro paragone a Gattuso, ma per carità, Mourinho, per carità. Io mi ricordo quando ho fatto quella sceneggiata, ma non sto paragonando nessuno, ma come interesse bella. No, ma come interesse delle cose che dice, cioè in un'intervista, come interesse delle cose che dice, come messaggi che lancia, positivi o negativi, da un punto di vista di puro interesse, stiamo facendo un discorso di comunicazione, non di calcio di valori, no? Però mi pare che... Vedete, di Inzaghi, e cosa vuole che vi dica? Gli dirà bene, senz'altro, no? Di chi? Se lei chiedesse a Gattuso un parere su Inzaghi o su un altro o su Nesta, cioè voglio dire, è chiaro che ne parlerà solo bene, no? anche se poi magari si sono prese cazzotti a spogliatoio, voglio dire, ma cosa vuol che dica? Non è così scontato. Ibrahimovic ad esempio non è che parla bene di tutti quanti. Da questo punto di vista, insomma, ma questo, ripeto, non può togliere nulla naturalmente al personaggio che è Savia Zanetti, positivo da ogni punto di vista. Poi ci sono quelli cui piacciono i personaggi un po' più maledetti, ma questa è questione di gusti, non è che glieli possiamo levare. Soltanto questo si stava dicendo, non null'altro. Poi ci sono dei personaggi che guai a toccarli, perché altrimenti c'è il finimondo. Andrea Zorzi è uno che mette d'accordo tutti. Ciao Andrea. Ciao, mi fai partecipare di un momento in cui si parla di esempi e tu sai, dici contrario, ti dici, mi fa di capire. Cioè? Ma dunque, è un tema di quelli grandi, come spesso capita quando parlo con te. Allora, è vero che pensare che un atleta famoso di qualunque sport esso sia debba farsi carico dell'educazione e della morale dell'etica è un po' ipocrita. Bravissimo. Ma Carlo, non facciamo neanche il salto della rana e non dimentichiamoci che effettivamente un po' di attenzione anche al ruolo che si ha, a come lo si può interpretare, è tutt'altro che trascurabile. Quindi torniamo su un tema caldissimo che io ho seguito un po' da distante, ero a casa di Josefa idem ieri, quando Josefa dice: caro Ibra, tu sei un campione nonostante le tue bravate, non grazie alle tue bravate. Io condivido totalmente quello che dice. Certo, questo è indiscutibile, Andrea. Non è che, insomma, non esce bene, ma lo saprà anche lui da questo libro, perché se uno si autodipinge come bullo, come sbruffone, come ragazzaccio da strada, vabbè, non esce una grande figura da tutto questo. No, più che altro stavo discutendo con gli ascoltatori perché insomma, prima si è detto di Zanetti, i messaggi che manda Zanetti, grandissimo sportivo, però senti le interviste di Zanetti come di altri calciatori, non sono il massimo dell'interesse dal punto di vista dell'opinione, no? Semplicemente questo. Hai ragione, però frequentando la radio, la TV da qualche anno, mi rendo conto anche che è inevitabile che un messaggio di quelli un po' istituzionali, seri, di valore, faccia un po' di fatica ad emergere rispetto ad altri messaggi che invece sono un pochettino più interessanti, un po' più caldi, un po' più polemici. Allora, non è trascurabile il fatto che in televisione, tra una persona stimabile che dice una bella cosa e uno che va sopra le righe, quello sopra le righe vedrai che comunque ha più successo televisivo, che non equivale, lo diciamo chiaramente, in qualunque punto non equivale poi a un valore sulla persona, ma ci sono alcuni mezzi, e certamente con televisivo più degli altri, che tendono a valorizzare e dare più importanza non tanto a ciò che si dice, ma al modo in cui viene detto. Sì, detto che tu sei stato allenato da un grandissimo comunicatore come Julio Velasco, e Julio Velasco era uno che lui parlava e tu lo ascoltavi. Bravo. Onestamente, infatti, i calciatori parlano e tu non li ascolti, perché non ti dicono quasi nulla. Non si tratta per forza di essere dei maledetti o di dire parolacce, si tratta anche di lanciare messaggi che possano essere minimamente interessanti. Alzo bandiera bianca e sono d'accordo con te, esiste anche qualche bel compromesso ogni tanto. Ascolta, adesso il traffico, ma tu quando torni? Io sono rientrato in questo momento, ho parcheggiato adesso. A Milano e ti ho lasciato settimana scorsa a Coverciano. Nel frattempo sono andato ad Assisi a vedere come si menano alla grande i pugili che si preparano per le Olimpiadi. Ho conosciuto Cammarelli, ho conosciuto un po' di persone veramente molto interessanti. Ascolta, se hai un attimo, però dopo il traffico mi racconti con un po' più di calma. Ti aspetto. Conterei di averlo qui a stretto giro di posta, Andrea Zorzi, che intanto è con noi al telefono. Mi dicevi ad Assisi che sei andato a vedere che si menavano di brutto. Ma in realtà c'è questo Centro Nazionale del Pugilato, che è un posto bellissimo, è stato ricavato in un laboratorio, in una fabbrica della Mount Edison, una struttura bellissima, e da qualche anno ormai è il luogo nel quale tutti gli allenatori, tutti quanti i pugilatori si allenano. Poi, a te che sei grande tifoso del basket, sono passato da Pesaro e ho parlato con Walter Magnifico, che mi ha raccontato due cose che secondo me neanche tu conosci. Una, che prima delle partite più importanti, poiché il palazzetto, quello vecchio, sai, dei partigiani, era sempre strapieno, l'hangar, il famoso hangar di dei partigiani, loro facevano passare dei ragazzini dalle finestre dello spogliatoio senza biglietto per farli andare a vedere la partita, e lo facevano prima che il buon Bianchini iniziasse la riunione pre-partita. Sì. il quale partiva dalla filosofia del mondo per arrivare alla tecnica tattica della partita, certo. Ma lo faceva in tempi mediamente lunghi, ma trovate, io non ricordo bene, ma gara 2 contro Milano, 2 ore e un quarto di riunione pre-partita. E il Vate quando comincia a parlare non lo ferma più nessuno. Andrea, piuttosto dimmi una cosa, dammi una battuta e dammi un tuo pensiero, lasciaci un tuo post. Anche se non siamo su Facebook e su Twitter, cosa che i nostri ascoltatori possono fare con le nostre pagine, lasciami un tuo post sulla nazionale campione del mondo di pallavolo, dai. Dunque, veramente strafelice, e poi la chiave è Barbolini, che durante l'estate, letteralmente massacrato dai federali, dice, ma capisco le critiche, ma un po' di rispetto in più me l'aspettavo. E lo dice da campione del mondo, è proprio il più grande, ma di gran lunga il più grande. Da domani sarai impegnato nei commenti dell'avventura maschile, no? Da domattina presto. Alle 7, vabbè. Alle 6 sono già a Sky, ma dopo domani mattina inizio alle 3, quindi insomma... Era ora che tornassi a lavorare, giusto? Basta che... Ma come no, sei sempre in giro. Ciao Andrea! Ciao, ci vediamo. Io spero sabato, non so che impegni avrai, conterei di averti qui. Manchi un po', dai, lo confesso, mi mancate. Sì, fa il bravo. Grazie Andrea. Ciao. Sapessi che ci manchi tu. Massimiliano da Cremona. Buonasera Carlo, grazie per lo spazio. Io vorrei collegarmi un attimo a quello che diceva Andrea Zozzi, sono d'accordo con lui per quanto riguarda il fair play, è giusto dare le dimostrazioni di essere dei bravi ragazzi. Però sono soprattutto d'accordo con lei, nel senso che io non gradisco molto queste interviste stereotipate, ma non parlo solo del calcio, parlo anche della Formula 1, so che lei è un appassionato di Formula 1. Di qualunque sport. Ad esempio, lei si ricorderà benissimo le interviste di Nelson Piquet, piuttosto che di Senna o di altri campioni di quell'epoca, dove le sparavano a zero senza curarsi degli sport. Ma io mi ricordo anche quelle di Villeneuve o di James Hunt, per andare un po' più indietro, insomma, erano personaggi che avevano qualcosa da dire. Adesso infatti, io posso anche capire questi ragazzi che si trovano al centro di grandi attenzioni mediatiche, di grandi interessi economici, e che rispondano in modo un po' banale, anzi o molto banale, non possiamo dire che tutti quanti siano interessanti. Normalmente, in tutta onestà, sentire le interviste degli sportivi è di una noia mortale, perché non tutti amici, va tutto bene, la prossima partita è quella che conta e pensiamo al lavoro, all'etica del lavoro, e conta vincere sul campo, e sono tutte queste cose che sinceramente non trovo di grande appeal, di grande interesse, pur facendo questo mestiere. Massimiliano, devo andare di corsa, mi scuso, perché devo andare di corsa a capire che cosa succede di un evento che si sta molto a cuore, di cui parliamo continuamente, con il mondiale di surf, che finalmente in Liguria c'è. Riccardo Belli, buonasera. Buonasera Carlo, sì, siamo partiti stamattina finalmente, l'abbiamo fatta. Ci siamo spostati da Levanto ad Andorra. Per questione di onde? Tutta la carovana, tutta l'organizzazione si è spostata, stamattina alle 4:30 siamo partiti, la decisione è stata presa ieri sera alle 8:00. Le onde ad Andorra erano promesse, sono arrivate e oggi abbiamo gareggiato i 32 sono diventati 16. Ci ho fatto una sorpresa, qui a fianco a me Marco Boscaglia, che oggi ha gareggiato con Dwayne De Soto, il più forte surfista al mondo. Ah però. Ciao Carlo. Ciao Marco, come stai? Tutto bene, benissimo, guarda. Non ha parole il ragazzo, non riesce a parlare. L'hai Carlo. Battuto? Hai battuto Dwayne De Soto, il più forte surfista al mondo, che ho visto l'altro giorno, è una bestia pazzesca? Guarda, io avevo la mia batteria era iniziata 10 giorni fa, quando ho iniziato a farlo ubriacare. Purtroppo però non l'ho lottato in acqua, è comunque il migliore, è stata difficilissima. Però sei soddisfatto? Soddisfattissimo, l'evento più bello che si potesse creare in Italia a livello di surf e comunque a livello mondiale, perché stiamo parlando di un mondiale, e per me è l'emozione più grande in questi ultimi 22 anni della mia vita. cioè tutti quanti. Senti, dimmi una cosa Marco, chi lo vince? Lo vince lui? Lo vince l'imbattibile De Soto o magari Del Pero, il francesino mezzo italiano, fa una sorpresa? Allora, secondo me, io dal mio punto di vista non credo che vinca De Soto, perché comunque non è molto favorito sulle onde piccole, lui è molto forte sulle onde grandi, e secondo me è molto più facile che vincano surfisti come Antoine Delpero, come dicevi tu, e Taylor Jensen, che è molto, molto in forma. Anche Kai Sallas, un altro hawaiano, oggi ha fatto il miglior punteggio della giornata. Vedo più loro verso una ipotetica finale. Per il titolo, per il titolo. Grazie Marco, grazie, ci vediamo in acqua perché me l'hai promesso, hai promesso. Mi faccio perché insomma, ognuno ha i suoi privilegi. Il mio è quello di farmi insegnare ad andare sul surf da un surfista che ha fatto i mondiali contro De Soto, il numero uno. Chiudo con Riccardo Belli in un minuto per capire cosa succede domani. Domani mattina 6:45 si parte e si sfideranno, tanto per far capire agli ascoltatori, è un po' come un tabellone di tennis, uno contro uno, e si va fino alla finale che vedrà i due che hanno vinto tutte le sfide, e molto probabilmente riusciremo a finire per le 3 di pomeriggio. Poi tutti, carovana, si riparte, si ritorna a Levanto, perché il comune di Levanto si merita la celebrazione, perché tutto quello che è stato fatto è grazie al comune di Levanto e a tante organizzazioni per la celebrazione, e poi tutti a cena fuori per celebrare di nuovo tutti insieme, tutti gli sponsor, questo grande appuntamento che siamo riusciti a coronare, Carlo, l'ultimo weekend come nel migliore dei sogni. Come nel migliore dei film. In questi 12 giorni quanto abbiamo sofferto questo waiting period, io lo sognerò per un anno. Tanto tu domani, facciamo verso le 4:30, sei qui su questi schermi a dirci chi vince. Assolutamente, mi corre doveroso dirti che sono d'accordo con Paolo Bargiglio, perché ti ascoltavo prima. Adesso rischiamo di riaprire sto discorso che mi porterebbe ad essere sbranato dagli ascoltatori, cosa che farò volentieri domani dalle 4:30 alle 7. Grazie a Giorgio De Luca per il lavoro in redazione, a Carmelo Lauricella in regia, ci sentiamo dopo.